颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天10:22播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月， 请欣赏罗西尼的歌剧《塞维利亚理发师》选曲，由塞维里、加纳西、马格兹、格拉蒂兹等歌唱家的精彩演唱，由哈伯格指挥布达佩斯罗西尼管弦乐团、匈牙利广播合唱团演出。 Thank you.

sì signore. Ubriaco, ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché? Perché d'un che è poco in sé, che dal vino casca già, il tutor credete a me, il tutor si fiderà, il tutor credete, credete a me, il tutor si fiderà. Che invenzione, che invenzione, per il cuore! Che invenzione, che invenzione, per il cuore! Che invenzione, che invenzione, per il bella, bella, bella, bella, bella, in verità! Sì, sì! Che invenzione, che invenzione, per il bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, che invenzione, per la bella, bella, che invenzione, per la bella, bella, il meglio mi scordavo. Sì? Dimmi un po' la tua bottega per trovarti dove sta. La bottega non si sbaglia, guardi me, ecco là. Numero 15, a mano manca, 4 gradini, facciata bianca, 5 parrucche, nella vetrina, sopra un cartello, fumata fina, mostra in azzurro, alla moderna, vede l'insegna, una lanterna, cosa in fallo, si troverà, 5 parrucche, nella vetrina, sopra un cartello, fumata fina, mostra in azzurro, alla moderna, vede l'insegna, una lanterna, la senza fallo, la senza fallo, la senza fallo mi troverà. Cinque parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito, or vada presto. Tu guarda bene, io penso al resto. Di te mi fido, ora l'attendo. Mio caro Figaro, intendo, intendo. Porterò me con la borsa piena. Sì, quel che vuoi, ma il resto poi. Così tu mi dite, me ne andrò. Ma che d'amore la fiamma io sento, che musica di giù, e si consento. D'ardore insolito quest'alma accende, e di me stesso, ma dormi qua. Delle monete, il suo già sento, pietà, ma l'eloge della gente, la fiamma io sento, viene l'eloge, viene l'eloge, l'unzione, ecco, c'è viene l'argento, c'è viene l'argento, ecco, ecco, già si accende, ecco, ecco, una pizza, ecco, ecco, ecco, mi scende, da d'ore in solito, questa noce, c'è viene l'eloge, viene l'eloge, di me stesso, stesso mi fa, giù viene l'ora, giù viene l'ora, di me stesso, ma giù mi fa. Numero 15, facciata bianca, 5 parrucche, alla moderna, che per l'insegna, una lanterna, 5 parrucche, la vetrina, la vetrina, senza l'insegna, la senza fare di fronte. Di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso, di me stesso. Thank you. sono il mio cor ferito è già. Thank you. Si introduce destramento e le teste di cervelli e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiavazzo va crescendo, prende forza poco poco. Una già di lapino con sempre fuori una tempesta, c'era sempre tanto presto, ma ti schianto trottolando, e ti guardo l'orcerando, poi la pintra volta scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione, come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un comando generale. Un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tremoto generale che fa l'aria di scombar. E il meschino calunniato ha vilito calpestato. E allora? Sotto il pubblico flagello per la sorte va a crepar. E il meschino calunniato ha finito calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. E il meschino calunniato ha finito calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepare. E il meschino calunniato ha finito calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Si va a crepar, si va a crepar, si va a crepar. Oh, non mi inganni,

fortuna, fallo forte la mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, tu potrei il vostro lar, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, confecchio alla ragazza il ricamo sul tamburo visco pasta e via e via chi vuol altro figlia mia per potermi carmellar altro, altro, altro, altro chi vuol altro figlia mia per potermi corbellar altro, altro, altro, altro perché manca anche il foglio posso aprire con te s'imbroglio perché manca anche il foglio sono inutili le sbarfie fermala, non mi toccate fermala, non mi toccate no figlia mia non lo sperate che io mi lasci No, no, figlia mia, non lo sperate, io mi lasci in filo, car quando corbella mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, tu vorrei il vostro lar, oh, oh, oh, oh, il vostro lar, oh, oh, oh, meglio, oh, meglio il vostro lar. Via caduta. Confessate, son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate. So benissimo quel che ho da far, so benissimo. Quel che ho da far. Signorina, un'altra volta che lo parlano fuori. Signorina, un'altra volta che lo parlano fuori. La consegna se vittoria, suo modo si saprà. Signorina, un'altra volta che lo parlano fuori. Signorina, un'altra volta che lo parlano fuori. La consegna se vittoria, suo modo si saprà. E non serve le morte, se pulla che è morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure che è morta. Questo poi quella porta, questo poi quella porta, nemmellare, nemmellare, nemmellare, ma torrà. E Rosinella sentita, sconsolata, disperata. E non serve le sforzi, faccia quella gatta volta. Questo poi quella porta, nemmellare, ma torrà. E Rosinella sentita, e Rosinella sentita, sono stata disperata, sono stata disperata, sono stata disperata, sono stata disperata. Dica quella, dica quella, dica quella. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, signorina, un'altra volta quando vanno fuori, signorina, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna se vittoria, se vuole, passa per là. E non sembra le smorfo, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Questo è tutto quella porta, questo è tutto quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non sembra le smorfie, faccia pure la gatta morta. Quella porta, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, nemmellare, non ti lascia in filo car e non si inventa sentita consolata, disperata di sua candela ferrata io voglio star con te io voglio star con te io voglio star con te io voglio star con te io voglio star con te si star con te, si star potrà, chi star potrà. Thank you. la la la la si con con le si di luna di passa e se bello povera non si riduce di passa e se bello povera non si riduce di passa Non capisco chi sarà. Più propizio a me sarà. Sì, sì, propizio a me sarà. Gioia e pace, pace, gioia. Ho capito, ma c'è che noia. Gioia e pace, vendi cuore. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà. Gioia e gioia, pace, pace, ho capito, ho capito, ho ciel che noia, ben di cuore, pace, gioia, basta, basta, gioia, basta, per pietà, pace, perfido destino, il vecchio non mi conosce, ma che barbara giornata, ma mia sorte fortunata, ma che perfido destino, oh, ma che mio bene, ma che bene, fuori, fuori, fuori, ma che bello destino, ma che barbara giornata, gioia, canaglia, pace, ma basta, gioia, basta, basta, per pietà, povera bella, povera stanno, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, Che pace! Basta! 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月，请欣赏普契尼的歌剧《托斯卡》中的选段，由米瑞西欧、兰姆蒂博、卡洛里等歌唱家的演唱，斯洛华克爱乐合唱团演唱，捷克斯洛华克广播交响乐团演奏，拉巴里指挥。 Tanto è l'erede fermata nella sua preghiera.